bevi nel caffè, tu in ogni uomo vedi me, tu che mi porti via con te, tu che mi pensi in ogni via, a casa, a scuola, in filovia, tu che non puoi restare sola, tu che telefoni ogni ora e poi non dici una parola. Innamorata, innamorata, innamorata.